Allora, abbiamo parlato con Massimo Valente, di un prossimo anno di fare un seminario sulla didattica per gli insegnanti. E il primo passaggio con lui abbiamo detto, ma potremmo organizzare un incontro tra persone competenti in questo settore, un incontro libero in cui ci scambiamo delle idee. E quindi vediamo un modellamento generale di quello che c'è sulla didattica, no? Non partire da zero, ovviamente, questo mi sembra una cosa eccellente. Vediamo come si può fare, però questo è perché non si parte, non possiamo, se no siamo egocentrati, pensiamo che il mondo ruoti intorno a noi. No, vediamo cosa c'è già intorno. Dopodiché, adesso dico quale può essere una proposta specifica di Aleph. Allora, nell'Aleph la didattica è parte essenziale di tutto ciò che facciamo. Perché? Perché per il principio che le persone cambiano se acquisiscono consapevolezza. Quindi siamo dell'idea che aveva Eschilo che la sofferenza è errore della mente, cioè è dovuta a ignoranza, come quella stessa cosa che pensa il Buddha, e non è dovuta a colpa, ma è dovuta a ignoranza. Allora, il potere ha sempre interesse a mantenere le persone nell'ignoranza, perché l'ignoranza ci si indebolisce. E perché? Ci si indebolisce nel senso che attraverso l'ignoranza creiamo dissonanze cognitive interne, non capiamo la realtà esterna. Ci indeboliamo e quindi non abbiamo forza per contrapporci eventualmente a un oppressore. L'ignoranza fa sì che al nostro interno prolifichi la nevrosi, perché la nevrosi è ignoranza della mente, anche quella. Allora, noi se osserviamo il mondo come è fatto oggi, è tutto frammentato, cioè quando si fa una cosa, per esempio, si studia psicologia, si studia politica, si tiene tutto separato. Bene, questa separazione, questa frammentazione del sapere è poi la frammentazione della mente. E la mente frammentata, come dice Bateson, cosa fa? Non sono solo distinzioni, sono vere e proprie separazioni che si trasformano regolarmente poi in opposizioni. Quindi stiamo immettendo un sapere fatto così, senza rendercene conto, stiamo mettendo della dinamite nel nostro cervello, la quale poi o la buttiamo fuori, il cervello spesso si libera in questo modo, come si libera delle feci, oppure ci rimangono delle dissonanze cognitive. Le dissonanze cognitive non sono che conflitti che non abbiamo risolto, conflitti che mangiano energie, conflitti che ci fanno indebolire, conflitti che si iscrivono come tensioni nel corpo. Allora, cosa vuol dire recuperare una didattica integrale? Che Aleph è questo che vuol fare. Una didattica integrale vuol dire che se mi occupo della cellula, devo partire dai principi. Il principio è, se faccio una cosa, deve essere qualcosa che è utile davvero. Utile a che cosa? Non a una semplice acquisizione di una nozione per poi andare a rispondere all'esame. Questo è uno scopo veramente delirante. Deve essere utile alla vita. È utile alla vita studiare una cellula, lo è se si studia l'essenziale. Se si studiano i dettagli, serve solo a creare quella situazione di dominazione per cui chi sa i dettagli poi si impone a chi non li sa. Ecco, poi cosa succede? Il studente va, ripete, quello bravo, cosiddetto bravo, va, si sottomette, sa questi dettagli, l'altro invece si oppone, non li sa e va bene, poi viene punito. Allora, perché ci sia motivazione all'apprendimento, bisogna che l'apprendimento sia significativo per le persone, cioè gli dica qualcosa sulla loro vita, che gli cambi la vita. Ogni cosa che apprendiamo deve avere significato per noi. Se noi una vera didattica è quella che connette la cellula con la mia vita di tutti i giorni e mi fa capire che una cellula non è che altro che in piccolo quello che io sono. Molto più complicato, ma nella cellula c'è un sistema nervoso, c'è un sistema riproduttivo, c'è un sistema percettivo e così via, c'è un cervello e così via. Studiarla come, in altri termini, per esempio, fa Lipton la descrive in una maniera che attira l'attenzione di tutti e non a caso Lipton è stato un grande didatta perché ha ottenuto migliori risultati con studenti scadenti di quelli che ottengono i migliori professori con studenti eccellenti. Quindi è una prova in definitiva. Allora, nella didattica come Aleph noi possiamo portare questo contributo di come ogni passo è la meta. Quindi mentre io studio la storia non per soddisfare la Gelmini, perché francamente può anche rimanere com'è, ma perché questo studio serve a me per quello che faccio oggi, per quello che faccio domani, quindi è lì tutta la tematica delle metafore. Dei principi e così via. Allora, faccio un esempio. Questa mattina abbiamo parlato di creare nel sito una guida alla navigazione che sia utile. Allora, ci siamo chiesti utile a chi? Beh, utile a 360 gradi, quindi siccome la faccio io deve essere utile in primo luogo a me e a Marta che ci lavora, la Barbara e le persone che ci lavorano di più quelli che lo frequentano, ma utile poi in generale alle persone future. Allora, come può essere utile? Beh, bisogna fare un'opera di sistematizzazione. Dobbiamo vedere i contenuti e collegarli in una piantina, in qualcosa che sia molto chiaro, così come vogliamo fare sulle tecniche. Allora, qui ho introdotto un parametro che è improvvisazione e composizione. Fino adesso quel sito è stato guidato da metaprogramma improvvisazione. In PNL si chiama opzioni, anziché composizione, in PNL si chiama procedure. Improvvisazione e composizione sono due metaprogrammi, tutte e due sono funzioni importanti e lì si richiama il principio della bilancia. Nessuna funzione, se non è equilibrata con le altre, è adattiva. Quindi, perché una funzione non si trasformi in un inquinante, bisogna che sia in equilibrio e quindi il simbolo della bilancia. Ok. Improvvisazione e composizione o opzioni e procedure. A metà uso del pensiero metaforico, lo richiama. Se io faccio solo improvvisazione, stimolo la mia supersonalità istrionica. Quindi quella che vuol far colpo, che vuole avere successo immediato, che non rinvia la gratificazione, che si basa sulle improvvise intuizioni e che è sensazionalista. Quindi io posso andare avanti tutta la vita utilizzando l'improvvisazione. Se però non c'è il metaprogramma composizione, io rimango una persona superficiale. Ecco, quindi che non faccio rapport con una buona fetta di popolazione, tutte le strutture ossessive, le strutture più riflessive. Ecco, quindi che parlando dello stesso del tema, guida la navigazione, vedi che ho messo dentro improvvisazione e composizione, che sono cose che vengono dalla musica, ma queste in PNL si chiamano metaprogrammi, questi metaprogrammi hanno un nome, e poi i metaprogrammi vanno bilanciati, quindi principio del bilanciamento. Come vedi, semplicemente parlando del sito internet stiamo già introducendo tutta una serie di principi, di metaprogrammi, di metafore, e questo rende il sapere collegato in rete nella nostra testa. Per cui quando cominciamo a ragionare su qualcosa poi finiamo col sembrare intelligenti. Non che prima non lo eravamo, potenzialmente lo eravamo, ma se il sapere è frammentato diventiamo ottusi. Ecco. Quindi la nostra didattica dovrà essere quella in cui si prendono i frammenti e da ogni frammento, altro principio, bisogna distinguere cosa c'è di importante e cosa c'è di importante. Quello che veramente è utile è l'anima di quell'insegnamento e quello che invece è copione di quell'insegnamento, cioè burocrazia, ripetizione, dettagli che serve a chi quell'insegnamento lo conosce e gli serve per mantenere potere. Quindi per ogni cosa che noi insegniamo dobbiamo chiederci, ma lo sto facendo davvero per l'anima mia e degli altri o lo sto facendo per incrementare il mio altro copione? Una volta ripuliti i frammenti, vi ho detto prima sulla cellula cosa fare, possiamo poi collegarli tra loro perché le anime delle conoscenze si collegano facilmente tra loro. Quello che non si collega tra loro sono i copioni delle conoscenze, quelli si oppongono regolarmente, così come le anime, quindi vediamo. Quando parliamo di conoscenza, al posto di conoscenza possiamo metterci persone. Quello che serve per le persone serve anche le conoscenze. Capite che tutta la didattica viene trasformata completamente perché è un altro modo di pensare? Quindi non utilizziamo dei sistemi. L'Aleph non ha come compito quello di insegnare nuovi metodi per creare un cervello separato, diviso e frammentato. Quello ci sa fare già da soli. Tipo la lettura veloce. Ma sono tutte stupidaggini. Quello che invece ci interessa è come si può introdurre un nuovo stile di pensiero che sia utile all'umanità, in primo luogo alla persona e a tutti, quindi sia utile alle piante, agli animali, al cielo, alla terra, al sole, a tutti. Ecco. Facendo così, questa diventa una didattica che mi motiva a farla, altrimenti non ho interesse perché dedicarmi a una didattica che può essere messa al servizio di un fine demenziale è inutile. Ecco. Il fine è quello di arricchirsi, avere profitto, di ecco. Quindi noi siamo in un mondo in cui si dà importanza agli oggetti, il che, come ci insegna Marx, vuol dire che è un mondo dove non si dà importanza alle relazioni. Allora noi vogliamo insegnare una didattica in cui si dà importanza alle relazioni, non solo tra le persone, ma tra le conoscenze, perché senza relazioni tra le conoscenze il cervello si intossica, assimila un cibo che non è, cioè introduce un cibo che non è assimilabile, perché il cervello è una rete e assimila solo ciò che è già fatto a forma di rete. Il resto lo sputa fuori, oppure lo introduce come tossine, come veleno, che poi naturalmente deve gestire con sofferenza per sé e per altri.